Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo anche del TAR del Lazio, che ha respinto il ricorso della Regione Puglia che voleva, puntava a ottenere l'annullamento delle note del Ministero dell'Ambiente che autorizzava il TAP all'espianto, ossia tradotto si procede con l'espianto provvisorio degli ulivi che poi verranno lì sistemati. La sospensiva che si concludeva ieri aveva di fatto bloccato l'avanzamento dei lavori, l'operazione di spostamento degli alberi che sono appunto propedeutiche, cioè servono all'avvio degli scavi per realizzare la parte finale del gasdotto TAP, quello che approderà a Melendugno. 157 dei 221 ulivi più famosi ormai della storia d'Italia sono già stati trasferiti, 13 sono già pronti, 30 sono già sistemati in grandi vasi. Comunque ce ne occuperemo perché lì c'è stata anche la protesta popolare, il comitato No TAP, il sostegno dei 94 sindaci della provincia. Parleremo anche di notizie di carattere finanziario, mi riferisco all'assemblea degli azionisti di Unicredit. Oggi ci sono state varie assemblee degli azionisti, anche Banca Generali. Unicredit, per il suo peso, è quella che approfondiremo. Bilancio 2016 si è chiuso con una perdita per 11,8 miliardi a causa di rettifiche su crediti deteriorati per 13 miliardi di euro, cioè crediti che erano messi prima a bilancio come ancora esigibili, ancora che potessero rientrare, che a questo punto vengono visti come crediti ormai deteriorati, non più esigibili. Tra l'altro, tra meno di due mesi si chiuderà l'aumento di capitale da 13 miliardi di euro di Unicredit e c'è anche un cambio nell'azionariato, le fondazioni assottigliano la partecipazione. L'unico azionista singolo che abbia più del 5% resta il fondo arabo Abar. Il 72% comunque del capitale di Unicredit è in mano a fondi esteri, ma poi ne parleremo. Parleremo anche del Venezuela, perché praticamente la situazione sta ulteriormente precipitando. Ieri tre persone uccise durante la protesta contro il governo di Nicolas Maduro, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere nuove elezioni e il rilascio del leader dell'opposizione, di vari leader dell'opposizione in carcere. Che cosa è successo oggi? Che il colosso automobilistico americano General Motors ha annunciato la sospensione di tutte le operazioni in Venezuela dopo che le autorità di Caracas hanno inaspettatamente sequestrato il suo stabilimento in Venezuela. GM parla di una misura arbitraria, confisca illegittima, in totale disprezzo della legalità. General Motors è in Venezuela da circa 70 anni, ha 2.700 dipendenti, insomma, ma la situazione si sta preoccupando perché il tasso di disoccupazione ormai raggiungerebbe il 35-40%, il PIL quest'anno crollerà del 7%, l'anno prossimo di un altro 4%. E poi parleremo anche della nostra manovra, perché arriva oggi in Parlamento la manovra correttiva, quella da 3 miliardi e 400 milioni di euro chiesti dall'Europa, lo 0,2% del deficit sul PIL. Si dà già per scontato un cosiddetto assalto alla diligenza per una manovrina, come si chiama in gergo, che resterà in Parlamento 60 giorni e quindi coincide, lo dico senza nessuna malizia, ma con un po' di così, nemmeno con troppa ingenuità, coincide con la campagna elettorale, visto che le prossime amministrative saranno l'11 giugno. La borsa nel frattempo, Milano più 0,37%, per quello che riguarda invece Parigi più 1,70%, Francoforte più 0,20%, Londra invariata 0,07%, come è ovvio che sia a Londra, Dow Jones più 0,44%. Devo dire che le borse oggi, come si capisce, sono abbastanza miste. Da noi va particolarmente bene Yux Net-a-Porter più 5,66%, Boots Unicem più 3,40%, UBI Banca più 3%, Mediobanca più 2,60% come il Banco BPM, Ferragamo più 2 come Unicredit, l'1,90 lo guadagna Mediaset e anche Biperbanca. Unipol più 1,20, fronte opposto Saipem meno 2, Tenaris meno 1,80 come Atlantia, l'1,40 lo perde Finecobank, l'1,30 Enel, l'1,1 A2A. Euro su dollaro quota 1,07, il numero per SMS e WhatsApp resta 349-238-6666. Rapidamente le altre notizie in breve. Come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale, per quello che riguarda il petrolio che oggi è leggermente in calo a $50 il barile, l'Arabia Saudita, i produttori di petrolio del Golfo per la precisione hanno raggiunto un accordo preliminare che potrebbe estendere oltre a giugno in Italia la produzione per ridurre le scorte in eccesso, lo ha comunicato il ministro del petrolio saudita Khalid Al-Falih. Comunque l'OPEC si riunirà il prossimo 25 maggio per decidere se prolungare in Italia la seconda parte dell'anno. Segnalo sul fronte internazionale anche l'arrivo del premier Gentiloni negli Stati Uniti per l'incontro di questa sera alla Casa Bianca con Donald Trump. Tra l'altro si è riaperta la possibilità che Trump incontri il Papa nei giorni del G7 di Taormina, quindi 26-27 maggio. E tra l'altro Trump ha preso anche posizione sulle proteste in Venezuela, criticando Maduro che soffoca la voce degli oppositori, e ha chiesto anche, ha messo sotto pressione anche l'Iran ordinando una verifica dell'accordo sul nucleare. Oggi il numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto: dai vari contatti che ho avuto con l'amministrazione americana ritengo che possiamo collaborare. E poi ha toccato il tema del surplus commerciale tedesco e dice che il Fondo Monetario non ha cambiato posizione, ossia che vadano ridotti gli squilibri interni, il surplus di bilancio della Germania dovrebbe essere affrontato. E quindi insomma, però al di là della dichiarazione poi sappiamo che nulla è mai successo da questo punto di vista. Mentre visto che siamo già in Europa, ci sono le nuove proiezioni a 3 giorni dal primo turno del voto in Francia: Emmanuel Macron al 25%, Marine Le Pen al 22% e distaccati gli altri, infatti Fillon e Jean-Luc Mélenchon sarebbero al 19%, quindi candidato della destra repubblicana e della sinistra radicale. Margini di errore chiaramente sono ancora possibili. Molto staccato invece il socialista Benoît Hamon al 7,5%. E a proposito di sondaggi, sembra veramente incolmabile il vantaggio dei Tories, dei conservatori in Gran Bretagna, visto che Theresa May ha annunciato le elezioni l'8 giugno sui Labour, ma addirittura un vantaggio per cui uno viene doppiato, come si potrebbe dire in gergo sportivo. I conservatori Tories sarebbero al 48%, seguiti dai laburisti al 24%, cioè la metà, i Lib Dem al 12% e l'UKIP al 7%, quindi ampia, dovrebbe, se confermati questi sondaggi, verificarsi un'ampia vittoria dei Tories nelle prossime elezioni. Allora, oggi proprio sulla Gran Bretagna è intervenuto anche il presidente della Consob italiana Vegas, ma in merito al London Stock Exchange controlla la borsa italiana. Ha detto Vegas: oltre alle opportunità per il mercato finanziario italiano ci sono anche dei rischi rappresentati da una marginalizzazione dei mercati italiani rispetto al circuito Euronext, quello francese, e Deutsche Börse, quello tedesco. Lo ha detto in audizione alla Commissione riunita Affari Esteri e Politiche dell'Unione Europea alla Camera. Ci sono alcune pratiche che destano qualche preoccupazione, ha detto, pratiche della Banca Centrale Europea, certe pressioni sulla vendita dei crediti deteriorati possono portare a qualche problema. L'EBA, l'autorità di vigilanza bancaria, ha detto Vegas, non vedo un futuro brillante per l'EBA, è inutile che venga a Milano se poi a livello europeo decideremo di superarla. Vedo che già alcuni mi chiedono sui temi della manovrina, sì, insomma, taglio le spese dei ministeri, ne parleremo nella seconda ora del programma, un aumento di giochi, aumento di, chiaramente della tassazione su giochi e lotterie, 300 milioni, 200 milioni delle accise sui tabacchi e poi lo split payment e altre novità. Per quello che riguarda invece l'ufficio di Palazzo Chigi, in audizione sul DEF, la disattivazione totale delle clausole di salvaguardia appare di difficile realizzazione. Questo ha detto Giuseppe Pisaro in edizione sul DEF. Dice attenzione perché c'è una forte incertezza di base sulla dimensione dell'aggiustamento necessario, con un sostanziale rinvio alla possibilità di cambiamenti nel braccio preventivo, ossia dice poi bisognerà vedere quelle che eventualmente saranno le modifiche alle regole europee. L'obiettivo di un deficit all'1,2% è da perseguire con fermezza, ha detto invece la Corte dei Conti, anche con uno stop parziale alle clausole di salvaguardia, quelle che se non si trovano 18 miliardi scatterebbero in automatico nel 2018, aumentando IVA e accise. A proposito di bilanci, faccio notare che oggi è stato approvato anche il bilancio di Confindustria. Nel 2017 3 milioni di risparmio, un avanzo di 9.000 euro, importanti razionalizzazioni dei costi, si legge nel comunicato. Nel bilancio di Confindustria, in aderenza ai principi contabili, c'è anche la partecipazione della quota da Sole 24 Ore, che è calcolata in 68, al 31 dicembre 2016, a 68,9 milioni di euro. E poi segnalo, per chiudere e passare al primo tema, un botta e risposta tra il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del 5 Stelle e il presidente dell'INPS Tito Boeri, perché Di Maio, parlando nel corso del forum sulla previdenza organizzato dalla Cassa dei Commercialisti, ha detto che insomma, i paesi che hanno investito sempre di più nella riduzione dell'orario di lavoro hanno dimostrato che la produttività aumenta. E gli ha risposto Boeri, che ha detto: le operazioni fatte per legge di riduzione dell'orario di lavoro sono rischiose, i precedenti avuti in Francia mostrano come sia stato un disastro, si sono distrutti milioni di posti di lavoro. Gli esempi che la storia offre, ha continuato Boeri, evidenziano come una riduzione dell'orario di lavoro per legge non faccia scendere il costo del lavoro, che aumenta soprattutto per i lavoratori con i salari più bassi, ecco perché poi le imprese si trovano a licenziare. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo da questi benedetti, dopo il periodo pasquale si può dire, benedetti Ulivi, e dalla decisione del TAR del Lazio. Dunque, dicevamo che il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Puglia, che voleva annullare l'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente per l'espianto provvisorio di questi 221 ulivi, ripeto, 157 già trasferiti nel sito di stoccaggio di Masseria del Capitano, 13 sono già pronti per essere spostati, 30 sono sistemati in grandi vasi, altri 11 sempre nei vasi si trovano in un deposito. Resta da sciogliere il nodo dello spostamento di 15 ulivi monumentali che possono essere trasferiti solo in seguito a specifica autorizzazione da parte della Commissione Ulivi Monumentali della Regione Puglia. Il termine utile termine utile per lo spostamento degli alberi nel rispetto del loro ciclo vegetativo è il 30 aprile. Domenico Palmiotti, che una volta si collegava con noi per l'Ilva, adesso per gli ulivi, ma va bene. Sempre di infrastrutture parliamo. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Dunque, questa decisione del TAR del Lazio che mette la parola fine alle proteste, nel senso che abbiamo detto mille volte che uno può pensarla come vuole, ma se c'è una decisione del governo avallata dal Ministero dell'Ambiente e anche dall'assessorato all'agricoltura pugliese, io capisco le proteste su tutto, però stiamo parlando di un gasdotto da 890 km, di cui solo 8 in Italia, quello che dovrebbe portare il gas dall'Azerbaigian in Italia, non solo per l'Italia, tant'è che il TAP è partecipato, oltre che da Snam, l'italiana Snam, al 20%, anche da British Petroleum e poi dal 20% del gruppo dell'Azerbaigian, che si chiama Socar, al 19% della belga Fluxys, al 16% della spagnola Enagas e al 5% dalla svizzera Axpo. E secondo il governo e tutte le dichiarazioni che abbiamo ascoltato, dovrebbe garantire, proprio visto che si va in scadenza nei prossimi anni di vari contratti, garantire intanto una maggiore differenziazione nel rifornimento di gas. Noi importiamo il 90% del gas che consumiamo e il gas da solo fa la metà di tutto il nostro fabbisogno energetico. Noi ci riforniamo da Russia, Algeria, Libia, Olanda e Norvegia. I contratti con Russia e Algeria in primis andranno rinegoziati e quindi c'è un duplice vantaggio: il fatto di avere diverse fonti di approvvigionamento, quindi non dipendere solo dal gasdotto che parte dalla Russia attraverso l'Ucraina o dal gasdotto algerino e anche libico. L'altra cosa è che vai a trattare quello che ha detto Calenda, adesso magari lo facciamo anche riascoltare, vai a trattare con una diversa forza contrattuale quando hai più fonti di approvvigionamento. Questo per dire il ruolo del TAP, e faccio notare che la rete italiana ha migliaia, se non ricordo male adesso andiamo a riverificare, 40.000 chilometri di gasdotti nella rete italiana. Qui stiamo parlando di 8 chilometri di gasdotto interrato a 10 metri di profondità. Domenico Palmiotti, che cosa capiterà adesso? Che cosa capiterà? Il TAR oggi ha respinto il ricorso della Regione Puglia, il TAR del Lazio ha detto che il ricorso è infondato, quindi un altro punto a favore per questa opera, ma va detto che nell'ultimo mese il gasdotto TAP ha incassato 3 provvedimenti importanti. Il primo della Corte Costituzionale, che ha bocciato un articolo di una legge regionale con cui la Regione, introducendo alcuni vincoli per quanto riguarda le aree degli ulivi, intendeva in qualche modo anche bloccare le opere di TAP. Il secondo pronunciamento è stato del Consiglio di Stato, che respingendo l'impugnativa della Regione contro l'autorizzazione unica del Ministero delle Attività dello Sviluppo, aveva detto che TAP aveva osservato tutte le procedure e che questa autorizzazione unica era stata rilasciata nel rispetto della leale collaborazione fra amministrazione dello Stato. Terzo pronunciamento, quello di oggi del TAR del Lazio. Al TAR del Lazio la Regione si era rivolta nell'ultimo mese contestando le note del Ministero dell'Ambiente che dicevano che TAP era in regola, che aveva rispettato le prescrizioni per l'espianto degli ulivi e che quindi questo espianto stesso poteva essere effettuato. E infatti sulla base di queste autorizzazioni, che a loro volta si collegavano ad altre autorizzazioni rilasciate dagli uffici del Dipartimento Agricoltura della Regione, TAP aveva cominciato l'espianto. Però poi la protesta popolare dei NoTAP, la protesta dei sindaci, tutta la mobilitazione che si è creata nel Salento ha fatto sì che il lavoro di espianto, una volta avviato, si bloccasse più volte. Infatti più volte è stato bloccato nonostante un massiccio dispiegamento della polizia, sin quando poi la Regione ha impugnato queste note del Ministero dell'Ambiente al TAR del Lazio. Il TAR del Lazio il 6 aprile scorso ha sospeso l'espianto e ha fissato al 19 aprile l'udienza. L'udienza si è tenuta ieri e questa mattina, diciamo in tarda mattinata, il provvedimento è stato depositato. Quindi l'espianto può proseguire, un espianto che ormai va fatto per poche decine di alberi, perché la gran parte degli ulivi della zona del microtunnel, l'espianto è stato già fatto e gli alberi sono stati quasi tutti messi a dimora. È rimasta soltanto una quota marginale, tant'è che la stessa Avvocatura dello Stato, nel suo ricorso nelle sue memorie, anzi al TAR, fa presente che lasciare questi alberi, questi pochi alberi così in condizioni non protetta, finirebbe col nuocere e minarne, diciamo, la stessa esistenza delle piante. Fanno notare gli ascoltatori che esiste la commissione in Puglia, ulivi monumentali della regione. Sì, adesso sì, certo, esiste. No, però esiste, diciamo... anche perché, lo dico con una punta di polemica, negli anni scorsi il problema degli ulivi secolari pugliesi non l'hanno creato gli sporchi cattivi diciamo produttori di energia, ma molti pugliesi che hanno venduto questi ulivi illegalmente, perché erano vincolati a acquirenti del centro nord Italia. Soprattutto ci sono stati scandali, polemiche, inchieste e quant'altro, per cui esiste, ma non perché, diciamo, il gasdotto si accanisca sugli ulivi, ma perché gli stessi proprietari degli ulivi in alcuni casi li vendevano illegalmente, no Domenico? Su certo, possiamo... la commissione degli ulivi monumentali esiste, però in questo caso parliamo di ulivi che sono stati sottoposti alla valutazione degli uffici della Regione Puglia, del Dipartimento Agricoltura. Il Dipartimento Agricoltura, attraverso due strutture, Osservatorio Fitosanitario e l'Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce, ha dato il via libera all'espianto. Quindi non è soltanto il Ministero che ha detto che TAP è in regola, che TAP può fare l'espianto, ma l'ha detto la stessa Regione. E proprio questi pronunciamenti favorevoli della Regione, il Consiglio di il TAR oggi nel suo provvedimento li mette in evidenza e fa altresì rilevare che è vero che la Regione Puglia è un ente vigilante sul rispetto della prescrizione relativa all'espianto degli ulivi, però la competenza di questa prescrizione rimane sempre in capo al Ministero, benché la Regione abbia anche dei poteri sul controllo di questa prescrizione. Allora, dunque, vedo oggi c'è stata anche una dichiarazione del ministro degli esteri azero Elmar Mamadiarov, il quale, dopo un incontro alla Farnesina con il ministro degli esteri Alfano, ha detto: con il TAP contribuiremo all'economia italiana, ci saranno contratti strategici per 800 milioni di euro in termini di benefici economici per le aziende di costruzioni e ingegneria. E poi, dopo aver ricordato che il suo paese è il maggiore fornitore di greggio all'Italia, ha detto: stiamo sviluppando un corridoio meridionale per rifornire il mercato italiano, in parte anche quello europeo. Il contributo italiano al TAP sarà di 7 milioni di dollari, dovrebbe creare fino a 1500 posti di lavoro, e poi TAP investirà più di 12 milioni di dollari in progetti sociali e ambientali. Giusto che vengano monitorati, giusto che si vada a verificare se questo avverrà realmente. A mio avviso completamente sbagliato l'opposizione, a prescindere rispetto al gasdotto, anche perché, ripeto, il nostro paese è attraversato da migliaia di chilometri di gasdotti sotterranei. Arrivano i principali a Tarvisio dalla Russia, al Passo Grieste dall'Olanda, Mazara del Vallo dall'Algeria e a Gela dalla Libia. Sono 35.000 chilometri di condotte uguali a quelle che verranno utilizzate in Puglia. Quindi delle due l'una: o il resto del paese è demente, oppure i pugliesi stanno facendo una battaglia per il loro giardino, ignorando che tante altre regioni italiane sono attraversate dal gas, che poi serve anche i pugliesi, perché, lo dico con massimo rispetto, quando accendi un fornello o un boiler in Puglia usi del gas che magari arriva da Tarvisio o arriva da Passo Gries o arriva a Mazara del Vallo o a Gela. Per cui, insomma, è bello accenderlo, è bello utilizzarlo, devi anche ogni tanto accettare il fatto che sto gas non piova dal cielo. Vedremo se questa è l'ultima puntata di una vicenda, a mio avviso, abbastanza assurda, anche perché c'è un accordo di carattere internazionale. Grazie intanto a Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Bari. Andiamo sul meteo e la pubblicità e poi torniamo in diretta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, andiamo sulla borsa e poi l'assemblea di Unicredit e i bilanci di Unicredit. Più 0,13% Milano, dicevamo più 1,5% Parigi, invariata Francoforte, invariata anche Londra, più 0,50% il Dow Jones. Atlantia -2,70, Saipem -2,20, Tenaris -1,80, Finecobank -1,40, l'1,30 lo perdono sia Enel che A2A e l'1% Campari. Questa la pattuglia dei titoli che perdono. Invece Hughes Net-a-Porter +5,90, Buzzi Unicem +3,40, UbiBanca +3, Banco BPM +2,80, Mediaset +2,60, Mediobanca +2,15 e Unicredit +1,80%. Dunque, Mediaset e Atlantia con Eleonora Micheli di Radio Cuore del Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Mediaset era partita male e poi è rimbalzato, invece Atlantia è sempre rimasta in negativo, diciamo. Sì, certo, per quanto riguarda Mediaset ovviamente era partita male, visto che ieri la società aveva pubblicato dei conti che erano stati giudicati abbastanza allarmanti dalla comunità finanziaria. La società infatti ha annunciato un rosso dal record a 294 milioni di euro con cui ha chiuso il bilancio del 2016. Questo soprattutto a causa di svalutazioni pari a 267 milioni per le attività PEI. Tuttavia poi diciamo che a mente fredda gli analisti e anche gli investitori hanno rivisto i conti, hanno detto che tutto sommato la società ha fatto una pulizia di bilancio, in più ha dato indicazioni di lieve crescita della raccolta pubblicitaria e quindi poi un po' cambiato il vento, Mediaset ha ripreso a salire e alla fine ha chiuso con questo +2,6%, sebbene vada detto che la prudenza continua a dominare su questo titolo dal momento che, ricordiamo, è proprio dei giorni scorsi la posizione della Agcom che ha imposto a Vivendi di decidere entro un anno se stare in Mediaset o in Telecom e soprattutto entro 60 giorni di fare anche una roadmap su come intende appunto disinvestire o dall'una o dall'altra società, per cui appunto la stessa Mediaset potrebbe risentire del contraccolpo di Vivendi. D'altra parte ricordiamo che esistono anche cause in corso da cui Mediaset potrebbe ottenere fino a 1 miliardo di euro richiesti come danni alla stessa Vivendi. E questo per quello che riguarda sia Mediaset appunto che Per quanto riguarda Atlantia invece esatto. Non ho detto, continua a soffrire, -2,67%, è andata male per tutta la seduta e da giorni ormai che va male, visto che la società secondo indiscrezioni starebbe per sferrare il colpo sulla spagnola Abertis, società che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere valutata fino a 17 miliardi di euro contro i 15,6 attuali, ovviamente una somma che verrà messa sul piatto da Atlantia, magari parte cash, parte nazioni o comunque finanziata eventualmente anche con successive dismissioni. Per adesso le trattative sono in corso, ma il mercato sembra credere che alla fine potrebbe andare in porto questa operazione. Allora, tralasciando Unicredit di cui parleremo dopo, oggi c'erano anche altre assemblee. Devo dire l'assemblea per esempio di Banca Generali, ma non solo. Abbiamo visto invece sui titoli andare bene, particolarmente bene Hughes Net-a-Porter e in generale il mondo legato alla moda. C'è un motivo particolare? Ma un motivo c'è, ad esempio c'è stata l'assemblea di Moncler e lo certo. Stesso Ruffini ha fornito indicazioni positive non tanto su che è un Moncler. Po' ritracciato, comunque +0,80 nel finale Moncler, prego. Sì, comunque è salita. Lo stesso Ruffini, che è appunto il numero uno di Moncler, ha fornito indicazioni positive non tanto sulla stessa Moncler quanto un po' sul settore della moda in generale, asserendo che sta tornando la clientela in Europa dopo che alla fine negli ultimi anni era un po' sparita sia a causa del terrorismo sia anche appunto dell'andamento dell'economia un po' debole che invece è in netta ripresa. Poi anche ha detto in Cina i paesi asiatici stanno andando bene, soffrono un po' gli Stati Uniti con i department store e soprattutto con il dollaro forte, però tutto sommato ha fatto un quadro molto positivo, quindi sia su Moncler sia sul comparto della moda. Inoltre ha detto che sarà in netta crescita anche tutto il settore delle vendite di lusso sull'online, e questo probabilmente ha portato ha soffiato appunto vento in poppa la stessa Hughes Net-a-Porter, che non a caso è salita del 5,8%. Tra l'altro qualche indicazione positiva potrebbe emergere proprio domani quando si riunirà l'assemblea dei soci di Hughes Net-a-Porter. Ancora andiamo su altri titoli deboli oggi, i petroliferi, dicevamo già in apertura del programma, E per quello che riguarda i titoli, Sapien appunto -2,20, Tenaris -1,80, Eni invece è invariata, tra chi cala anche Finecobank, Enel -1,35% come A2A, Campari -1%, tra chi è andato bene oltre a Mediaset, i titoli già nominati, Mediobanca +2,15, Biper +1,5, Ferragamo +1,5, Fiat Chrysler +1,20 e poi Unicredit +1,80%, di cui parleremo tra un attimo. Vorrei dare ancora i migliori e peggiori della giornata: TAS +19,90, +12,90, scusatemi, Wim Capital +8,80, Fincantieri +6,90. I migliori in assoluto, i peggiori: Juventus -5,25, molto era cresciuta, come mi può dire, ma non è tanto il pareggio di ieri, è che molto era cresciuta in queste sedute. Giglio Group -5,16, poi Sole 24 Ore -4,20, ieri aveva guadagnato quasi il 20%, oltre il 20% di rialzo, e Fintel Energy Group -3,70%. Grazie a Eleonora Michele, Radio Colle Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico, poi parliamo di Unicredit che ha annunciato una perdita che, letta così, è una perdita monstre, 11,8 miliardi, in realtà sono rettifiche quindi su crediti deteriorati che prima bilancio non erano deteriorati e sono, valgono 13 miliardi di euro e mutano completamente il bilancio di Unicredit, che però fra due mesi chiuderà l'aumento di capitale proprio da 13 miliardi di euro. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Minuti, Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera Marco. Buonasera a voi. Assemblea a Roma degli azionisti di Unicredit per approvare il bilancio 2016. Dicevo, se uno guarda il titolo e vede una perdita di 11,8 miliardi, prende spavento. In realtà è tutta dovuta alle rettifiche sui crediti deteriorati, vuol dire che tu prima li avevi in bilancio come ancora esigibili sti crediti, poi ti sei reso conto che no, non li avrei più, rettificare costa, e infatti le rettifiche valgono 13 miliardi di euro. E questo è il motivo di una tale perdita? Sì, è così, svalutazione dei crediti e anche di alcune partecipazioni, per esempio c'è il Fondo Atlante, per esempio c'è l'Italia, tutte eredità, se vogliamo, della vecchia Unicredit, che il nuovo amministratore delegato Mustier tiene a tenere lontana dalla nuova Unicredit, che è quella appunto che beneficia delle pulizie generali e che è riuscita a portare a casa i 13 miliardi di aumento. Di fatto oggi il capitale della nuova Unicredit, perché comunque i soci oggi sono quelli nuovi, e sono tanti quelli nuovi, hanno votato il bilancio della banca che non c'è più, diciamo. Ecco, tu citavi già l'Italia, lì Mustier, Jean-Pierre Mustier ha parlato di come, se ho ben capito, ha detto: abbiamo perso nel sostenere l'Italia già 500 milioni di euro in tre anni, è una somma grande, cos'altro possiamo fare? Continuiamo a lavorare, ma non possiamo perdere altro. Insomma, il giudizio è molto tranchant, per dirlo appunto con il francese Mustier. Sì, abbiamo già perso mezzo miliardo, adesso basta. Sì, Mustier è una persona molto pacata, se lo si vuol far arrabbiare basta chiedergli di Alitalia. Anche perché ha detto che una soluzione sostenibile nel lungo non è una soluzione, come dire, o la trovate nel breve o nel lungo, come diceva Keynes, saremmo tutti morti. Esatto, sì, diciamo che l'impressione è che il referendum che è partito ieri sia evidentemente la preoccupazione di questi giorni, sia la priorità, però che anche nel caso in cui passasse l'accordo firmato giovedì notte, la sostenibilità del piano, quello che prevede 2 miliardi di nuova finanza, sia ancora tutta da dimostrare. Ieri il presidente di Intesa Grosspietro aveva detto una cosa analoga, oggi l'ha ripetuta Mustier con toni ancora più perentori. Quindi, come dire, sembra che la partita sia ancora molto aperta, anche nel caso in cui appunto il referendum dovesse veder prevalere il sì. Tra l'altro, appunto, su questo abbiamo novità nell'organico di Unicredit, cioè si è dimesso, era atteso. Ha annunciato Montezemolo la rinuncia alla vicepresidenza del gruppo, resterà consigliere della banca. Veniamo all'azionariato, perché si iniziano a fare i calcoli di come sarà l'azionariato di Unicredit post aumento di capitale, 13 miliardi. E quindi, esatto, se ho ben capito, scenderanno le fondazioni intorno al 5-6%. L'unico azionista singolo sopra il 5% saranno gli arabi di Abar. Ma la cosa impressionante è la parte di capitali in mano a fondi esteri, no? Sì, diciamo che oggi in assemblea era la prima occasione per capire un po', dopo l'aumento, come è fatta la nuova geografia dell'azionariato. Effettivamente è venuto fuori un dato ancora più pronunciato delle spese, nel senso che il 72%, quindi quasi tre quarti del capitale, è in mano a fondi o fondi istituzionali, quindi da BlackRock in giù, diciamo, che hanno il 62% del capitale in mano, e un 10% in mano ai fondi sovrani. Quindi c'è Abar, ci sono i libici, c'è Norges, che è un altro fondo molto presente, il fondo sovrano norvegese. Quindi diciamo quasi tre quarti della banca di fatto appartengono al mercato. I soci storici, le fondazioni che fino a qualche anno fa erano le padrone della banca, sono ormai al 6%, e i risparmiatori, cioè l'azionariato retail, ormai conta il 13%, che è meno della metà di quello che ancora risultava avere in mano a novembre, dicembre, quindi prima dell'aumento. E nei fatti la banca ormai è una public company, diciamo, vera, cioè all'americana, alla tedesca, in cui trovare un proprietario di riferimento o comunque un gruppo di soci che abbiano il controllo, comunque mandano una quota significativa, è molto difficile. Allora, su questo insomma è giusto anche ricalcolare tutte le quote. Sulla parte retail, tu giustamente fai notare che è una parte molto, molto bassa. Sull'andamento invece in questi mesi, cioè la qualità dell'attivo, Marco Mustier ha detto qualcosa? Sì, ha parlato di NPL, come giustamente tu dicevi, il rosso del bilancio 2016 è dovuto in gran parte alle svalutazioni dei crediti. La buona notizia è che i flussi in ingresso, quindi vuol dire la velocità con cui nuovi crediti si deteriorano, è ai minimi del 2010, ha detto Mustier. Questo vuol dire che in realtà non riguarda solo il credit, questo trend per fortuna riguarda tutte le banche italiane. Se la qualità del credito non peggiora come è avvenuto negli ultimi anni, c'è da sperare, in particolare per Unicredit che ha agito in modo particolarmente pesante, che le pulizie fatte per un po' possano bastare e che quindi in futuro le banche, a partire appunto da quella che oggi aveva l'assemblea, possano accantonare di meno e distribuire più utili o comunque avere una zavorra meno pesante sulla testa. E il titolo, dicevamo, in borsa si è mosso relativamente bene perché è anche cresciuto per quello che riguarda l'andamento azionario, e infatti ha segnato, eccolo qua, se riuscisse, l'1,80% a 13,88 euro. Mi chiedono molti ascoltatori, ma visto che mancano ancora due mesi alla chiusura dell'aumento di capitale, vi potrebbero essere sorprese? Non mi sembra che l'aumento di capitale, adesso per quello che leggiamo, ma mi conferma Marco, stia andando nella direzione immaginata. No, diciamo che formalmente l'aumento di capitale è chiuso. Sì, perché è già chiuso, però i due mesi, insomma, novità non ve ne possono essere. No, direi di no, nel senso che progressivamente emergeranno le varie i nomi le partecipazioni. Sì, perché adesso aspettiamo il deposito del verbale di oggi, si scoprirà chi ha votato che cosa e quindi quante azioni aveva in mano, però l'aumento di capitale nella sua parte di mercato si è chiuso, è andato bene, quindi, e anche i movimenti registrati erano già visto e scritto a febbraio, quando si era chiusa la primissima finestra, i movimenti erano tali da escludere l'ingresso di soci pesanti, di aspiranti scalatori, insomma. Cioè, rispetto allo scenario del 10% di fondi sovrani, 13% di retail, quindi consumatori, fondazioni intorno al 6% e il restante 9% ad altri soggetti indistinti, insomma non ci aspettiamo colpi di scena. Aspettiamo colpi di scena. La banca ormai ha talmente tanta carta in giro, perché è così, dopo i 13 miliardi il capitale evidentemente si è allargato, in modo tale per cui chi vuole entrare e per forza di cose si fa notare, e al momento non si notano movimenti sospetti, diciamo così. Allora, grazie anche a Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che appunto ha seguito l'assemblea oggi di Unicredit. Dunque, non voglio più parlare di ulivi, l'abbiamo detto molte volte, dei migliaia, delle 2000 ulivi espiantati per il parco eolico, non voglio più tornare sulla TAP, no, vorrei andare in Venezuela, chiaramente in maniera giornalistica, anche se è un bellissimo paese, era un bellissimo paese con una difficilissima situazione in politica, anche perché Maduro continua ad avere contro proteste di piazza. Anche ieri almeno tre persone uccise durante gli scontri contro il governo di Nicolás Maduro, decine di migliaia di persone scese in piazza per chiedere nuove elezioni, ma la situazione si sta ingarbugliando ulteriormente, perché è arrivato anche la confisca definita illegittima dello stabilimento di General Motors. Il paese sta precipitando in una spirale, il PIL dovrebbe crollare del 7% quest'anno, del 4% l'anno prossimo, per un paese che uno dei primi produttori al mondo di petrolio, la situazione la dice lunga sulla gestione economica del paese. Ne parliamo dopo il GR24. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana storie a tinte un po' forti al Falco e il Gabbiano. La leggenda di Pierluccio Tinazzi, l'uomo che entrò a tutta velocità nel tunnel del Monte Bianco incendiato per salvare delle vite e perse la sua. E poi voliamo sulle ali di carta a raccontare Don Chisciotte, uno dei più grandi sognatori della storia dell'uomo. E poi Paul Tibbets, l'uomo che è riuscito a vivere senza rimorsi pur avendo sganciato l'atomica su Hiroshima. E chiudiamo con la leggenda, The King of Rock and Roll, Chuck Berry. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e il Gabbiano. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di Venezuela, dopo l'ultimo caso, e poi invece del testo, della manovra, manovrina che arriva in Parlamento da 3,4 miliardi per capire se e che cosa conterrà al suo interno. Allora, c'è un paese che è seduto su una delle più grandi riserve petrolifere del mondo, un paese che era considerato appunto un'eccezione nella Sud America degli anni 80 e 90, un paese che però ha in questo momento un'inflazione intorno al 700%, che l'anno prossimo secondo il Fondo Monetario dovrebbe arrivare al 2068%. Questo vuol dire che con un biglietto da 100 bolivar, che adesso vale appena 2,6 centesimi di dollaro, nel 2008 100 bolivar, ti permettevano di comprare 50 litri di latte. Oggi per comprare 50 litri di latte ci vogliono 1800, anzi per comprare un litro di latte ce ne vogliono 1800. La situazione è talmente disperata, un pacchetto di sigarette viene venduto a 2000 bolivar, che vuol dire 20 banconote da 100 bolivar, che è il taglio più alto per un pacchetto di sigarette, tant'è che i commercianti ormai ammettono che non contano più, non perdono più tempo, perché se le sigarette le costano 20 banconote da 100 bolivar, immaginiamoci il resto, non contano più i contanti ma li pesano, i pagamenti vengono effettuati a peso, cioè quello è il peso, e tanto è una situazione chiaramente sull'orlo della bancarotta. Un quarto della popolazione, stiamo parlando del Venezuela, chiaramente è indigente, classe media costretta a lunghe code per comprare generi alimentari, PIL che quest'anno crollerà del 7,2% secondo il Fondo Monetario, dell'anno prossimo del 4%, e la disoccupazione che in realtà viaggia intorno al 35-40%. Perfino la compagnia petrolifera statale ha sfiorato ripetutamente il default. Cosa è successo? Che dopo almeno tre persone uccise ieri durante le proteste contro il governo di Maduro, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro l'arresto dei leader dell'opposizione, a partire da e le accuse poi che Maduro ha mosso al presidente del Parlamento Julio Borges, accusandolo di essere responsabile delle violenze durante le proteste di piazza. Dicevo, oggi, come se non mancasse altro, hanno anche sequestrato lo stabilimento della General Motors, che da 70 anni produce auto lì, a 2700 dipendenti e 80 concessionari in tutto il paese. Roberto Darin, che segue da sempre per il Sole 24 Ore le vicende anche del Sud America, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ecco Roberto, noi sapevamo che la situazione era pesante, insomma l'opposizione è che ha la maggioranza in Parlamento da fine del 2015, chiede che se ne vada Maduro, eletto nel 2013, ha ottenuto anche le firme per un referendum revocatorio, ma insomma a me sembra che più che la parte politica qui stia precipitando tutta la parte economica del Venezuela. Beh, naturalmente i due aspetti sono fortemente correlati. Certamente l'economia del Venezuela naviga in pessime acque per due ragioni fondamentalmente. Primo, perché il prezzo del petrolio è calato e il Venezuela, come tu hai ricordato, è un paese che vive di petrolio, di esportazioni petrolifere. Il secondo aspetto è che la produzione di petrolio è diminuita, e ciò si somma come effetto negativo alla diminuzione del prezzo sui mercati internazionali, è diminuita perché le compagnie internazionali hanno fatto meno investimenti in Venezuela, perché naturalmente non si fidano di questa pesante instabilità politica e di questo quadro economico così preoccupante. Quindi il combinato disposto di riduzione dei prezzi internazionale del petrolio e riduzione degli investimenti sulle piattaforme petrolifere ha provocato uno shock palese, in cui i dati economici sono devastanti e in cui c'è un'inflazione superiore al 700%, anche se non è facile rilevarla perché non c'è più nessuno che sia in grado di effettuare delle rilevazioni e non ci sono istituti statistici autonomi. Quindi la situazione è davvero grave. L'opposizione per parte sua, il governo ha grandissime responsabilità. L'opposizione per parte sua non è riuscita a coagulare le forze attorno a un leader capace di, in questi ultimi anni, capace di imporsi. Ecco, quindi tu dici, da un lato Maduro che resiste oltre ogni logica, ma dall'altro anche un'opposizione che non riesce ad avere il sostegno pieno dell'opinione pubblica. Che sbocchi si prevedono? Perché quello che noi ricordavamo è che Venezuela, tra l'altro, è una terra di grande immigrazione italiana, di una forte comunità italiana, non avrebbe nessun motivo per versare in una situazione prefallimentare, viste le riserve di petrolio, visto che era considerato fino a qualche anno fa anche un paese relativamente stabile rispetto a altri paesi dell'area. Non mi sembra che Maduro abbia nessuna intenzione di mollare il colpo, però. No, per adesso sembra di no, e la variabile chiave è capire quanto le forze armate venezuelane continuino a essere fedeli al presidente Maduro. Nel momento in cui si determina una spaccatura all'interno dell'esercito, allora tutto può crollare da un momento all'altro. Le firme per il referendum revocatorio che erano state raccolte nel 2016 si sono rivelate in parte taroccate, e quindi il governo ha avuto buon gioco a dire che ci sono stati dei trucchi e quindi non le ha indette. Ora le prossime elezioni sono nel 2019, quindi un tempo lontano. Nel frattempo il paese versa in condizioni pessime, quindi potrebbe anche esserci un rischio default, anche se potrebbe essere una situazione, verificarsi una situazione talmente drammatica da spingere persino gli oppositori internazionali di Maduro a concedere dei prestiti per evitare il default, perché non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono uno dei principali, per gli Stati Uniti il Venezuela è uno dei principali mercati da cui importa petrolio. Tra l'altro, appunto, come tu ricordavi, anche la posizione di Trump già ieri è stata molto dura, ha detto di essere molto preoccupato per la situazione di scontro politico, lo ha detto in realtà a nome di Trump il segretario di Stato Rex Tillerson, dicendo che Trump è convinto che il presidente venezuelano Nicolas Maduro stia tentando di soffocare la voce dei suoi oppositori. Roberto, ma la vicenda General Motors a questo punto che invece che piega può prendere? Perché la General Motors ha parlato di confisca illegittima dei suoi asset in totale disprezzo della legalità, misura arbitraria. Ma perché, con tutti i problemi che ha il governo Maduro, deve andare anche a sequestrare una fabbrica che produce automobili? Chiedo. Dunque, questo è già avvenuto in altre circostanze, addirittura al gruppo Techint, che è un gruppo italiano molto importante, che in America Latina ha più di 50-60 mila dipendenti. Quindi sono già in passato stati sequestrati state sequestrate delle imprese importanti, cementifici, imprese siderurgiche. Più che sequestrate, sono state nazionalizzate. Ora non è chiaro che cosa il governo Maduro possa fare con la General Motors. Beh, ecco, ovviamente non avrà intenzione di nazionalizzarla, nel senso che non ha l'expertise, il Venezuela, le capacità tecniche, tecnologiche e organizzative per mandare avanti una fabbrica di automobili. Questo mi pare ovvio. Probabilmente è un braccio di ferro che vuole costringere gli Stati Uniti, spingere gli Stati Uniti a negoziare, a rivedere una posizione troppo frontale. Quindi immagino, in questo momento nessuno ha una risposta, sia chiaro, immagino che sia una provocazione per aprire una breccia e tentare di ottenere una maggiore legittimazione dal governo degli Stati Uniti. Non dimentichiamo che pochi mesi fa la mediazione papale che Bergoglio ha avviato a Caracas è fallita, quindi Maduro si trova spiazzato su tutta la linea, quindi indubbiamente non può isolarsi, anche se sullo scenario, sullo scacchiere internazionale non dobbiamo dimenticare un elemento importantissimo, e cioè che Cina e Russia sostanzialmente sono con lui e lo affiancano, quindi potrebbe anche trattarsi di una una triangolazione pericolosa in cui altri paesi potenze quali la Russia e la Cina si alleano con il Venezuela per guerreggiare in termini simbolici, ma non tanto, con il Venezuela. Allora, che Maduro stia soffocando l'opposizione, io non so se si possa parlare ancora di dittatura in senso tecnico, visto che c'è un Parlamento che ha la maggioranza appunto dell'opposizione, ma che Maduro stia utilizzando dei metodi antidemocratici, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666, l'abbiamo detto, mi sembrava in maniera abbastanza chiara, cioè arrestare l'opposizione, avere scontri continui, è tutto tranne che democratico, che poi abbia l'appoggio di Russia e Cina, insomma, va nella stessa direzione, mettiamola così. Grazie anche a Roberto Darini. Andiamo sul traffico e poi torniamo invece a pie pari in casa nostra, perché arriva in Parlamento la manovra, quindi assalta la diligenza sui 3,4 miliardi, ma in realtà non interessa capire se vengono confermate le indiscrezioni su dove il governo reperirà questi 3,4 miliardi che ci chiede l'Europa come correzione dello 0,2% sul deficit PIL. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presento Focus Economia. La manovra, ieri erano rimaste fuori, diciamo, per mancanza di tempo, alcune dichiarazioni, alcune audizioni per quello che riguarda la manovra, il DEF più che la manovrina, cioè il DEF dà l'impianto di quella che poi sarà la manovra d'autunno. E poi non si capisce bene quando verrà fatta questa manovra, perché se si va a elezioni prima lo si potrebbe anticipare, se si va a elezioni invece nel 2018 resterebbe quella data. Però anche oggi l'ufficio. Vi vorrei far ascoltare cosa dice il presidente dell'UPB, Giuseppe Pisauro, perché il tema resta questo sulla manovra 2018: come faremo a disattivare le clausole di salvaguardia? Già intervenne in maniera molto netta ai nostri microfoni il professor Piga, dicendo attenzione che scatteranno con queste proiezioni. Beh, insomma, anche l'UPB dice attenzione, è difficile che riusciamo a disattivarle completamente. Ricordo che per quel famoso accordo firmato dall'allora ministro Tremonti e poi anche ribadito, se non troviamo 18 miliardi di clausole di salvaguardia scattano in automatico aumento dell'IVA e aumento delle accise l'anno prossimo. Comunque sentiamo Pisauro su questo, e anche subito dopo invece la Corte dei Conti, e mi riferisco anche qui all'audizione della Corte dei Conti sempre sul DEF. Tutto il quadro sconta un'incertezza di base sulla dimensione stessa dell'aggiustamento che sarà necessario, quello che io prima ho dato per acquisito, lo 0,9, 1,4, 1,4, perché nel documento vi è un sostanziale rinvio alla possibilità che a livello europeo intervengano, di nuovo virgolette, cambiamenti nel braccio preventivo del patto di stabilità e crescita in senso più orientato alla crescita e allo sviluppo, tali da ridurre le correzioni fiscali richieste all'Italia per i prossimi anni. Questo potrebbe avvenire, però naturalmente ci consegna quello che dicevo prima all'inizio, un quadro programmatico non definito. Questo mi sembra, diciamo, difficile da non rilevare. E questo è l'Ufficio parlamentare di bilancio, quell'organismo che abbiamo voluto per dare una lettura oggettiva, non influenzata dalla politica, dal governo in carica, dei dati che vengono presentati dal ministro e dal governo quando si appronta una finanziaria. E dice: attenzione, non riusciamo, difficile riuscire a disattivare tutte queste clausole. Io, per come la capisco, vuol dire che una parte di miliardi dovremmo recuperarli con un aumento di IVA e di accise, ma vedremo. La Banca d'Italia, dicevo, oltre che la Corte dei Conti che ha detto attenzione, lo stop potrebbe essere parziale alle clausole di salvaguardia, anche la Banca d'Italia, con i numeri alla mano che ha fornito il governo, non esclude diciamo, la possibilità di reperire risorse attraverso IVA, ma dice: per la stop alle clausole va bene tagliare la lotta all'evasione, ma le risorse non sono certe, quindi non possiamo escludere che scatteranno. Anche questa volta il governo manifesta l'intenzione di evitare l'attuazione delle clausole di salvaguardia con interventi alternativi finalizzati principalmente al contrasto dell'evasione fiscale, alla razionalizzazione della spesa. Entrambi gli obiettivi sono ampiamente condivisibili, anzi da considerare strategici, ma la possibilità di reperire in questo modo risorse tanto ingenti in così breve tempo non è sicura, anche se alcuni degli strumenti di lotta all'evasione fiscale si sono effettivamente dimostrati efficaci negli ultimi anni, non è facile prevedere con precisione quantitativa i risultati di futuri interventi di questo tipo. La riduzione della spesa è uno sforzo complesso, pluriennale, che a nostro avviso dovrebbe contemplare anche la possibilità di introdurre elementi di concorrenza in alcuni servizi, in un quadro di regole pubbliche, per ridurne i costi, per accrescere la qualità. I provvedimenti per attuare questi obiettivi andranno nel corso del tempo vagliati con cura. Una riconsiderazione dell'ampio ventaglio delle aliquote dell'IVA non dovrebbe a questo stadio, a nostro avviso, essere esclusa, così come è opportuno valutare la possibilità di razionalizzare e contenere le cosiddette tax expenditures. Ora, questo per quello che riguarda il DEF. Su quello che riguarda invece la manovrina, la notizia vera è che slitta domani la presentazione in Parlamento. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E allora dico, almeno al di là dello slittare, perché parliamo di o c'è il rischio di un assalto alla diligenza, perché la manovrina resterà in Parlamento 60 giorni, e se ci confermi che l'impianto grosso dovrebbe riguardare 700 milioni di euro di spese in ministeri in meno, e poi 300 milioni da giochi, lotterie, 200 milioni da accise sui tabacchi, siamo a 1 miliardo e 200 milioni, e poi dalla rottamazione dei liti fiscali e l'estensione dello split payment 1 miliardo e 300 milioni. L'impianto rimane quello, si lavora su questo testo che è un po', come dire, articolato per non dire enorme, e proprio il fatto che sia enorme aumenta in maniera esponenziale il rischio dell'assalto alla diligenza, perché è l'ultimo treno per Yuma, cioè è l'ultimo decreto legge grosso che passerà in Parlamento prima della paralisi preelettorale. Però, scusami, c'è una cosa che non capisco. Questo decreto va in Parlamento per reperire 3 miliardi e 400 milioni, però non per spenderli. Però già che c'è, capito. Ma non, infatti non so, spesso non sono norme di spesa, sono riforme lasciate a metà. Sta entrando nelle ultime versioni del decreto la riforma del trasporto pubblico locale. Quella della multa da 200 euro? Quella della multa da 200 euro e anche degli incentivi a chi fa le gare e non fa gli affidamenti in house, e quella che introduce i costi standard nella definizione dei fondi. Multa da 200 euro per chi viene beccato sui mezzi pubblici senza biglietto. Sì, che poi anche già adesso c'è la multa, poi bisogna controllare e pagare. Ma qual è il punto? Diventa un decreto omnibus con dentro tante cose che non c'entrano nulla fra di loro. Ci sono i soldi alle province, ci sono un po' di aiuti alle città metropolitane, si aumentano le assunzioni dei comuni, eccetera. Tutta roba che non c'entra assolutamente nulla con la correzione dei conti. Però diciamo, siccome questo decreto deve arrivare perché lo chiede l'Europa, a quel punto ci metti anche emendamenti allegati? Ci hanno messo dentro tutto quello che non erano riusciti a fare per varie ragioni negli ultimi mesi. Se l'assalto alla diligenza l'ha fatto il governo, appunto trasformando il decreto con la manovrina in un omnibus, figuriamoci il Parlamento, quantomeno c'è più gente in Parlamento che al governo, quindi ci sono più interessi da sistemare prima della corsa al voto, e questo è appunto l'ultimo treno per farlo. Quindi quello che è facilissimo prevedere è un passaggio parlamentare molto complicato, in cui ci sono le manovre della correzione, quelle cifrate, quelle che portano le entrate, che sono più o meno blindate, ma ci saranno tutta una serie di norme, normette, regolette di varia natura, che ogni parlamentare si farà parte diligente per far salire sulla carrozza, ben consapevole che dopo non ne passano più. E l'esame durerà 60 giorni. L'esame dura 60 giorni perché lo prevede la legge. Il problema è quando inizia questo esame, perché noi parliamo di un decreto legge, il decreto legge è una roba urgente che deve essere cotta e mangiata, che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il giorno 11 di aprile, oggi se non sbaglio è il 20, e di giorno in giorno slittiamo nella presentazione del testo ufficiale, nella firma del Quirinale, proprio per la complessità di questo decreto, e questo naturalmente non farà che complicare la questione. Poi dopo la pausa estiva il Parlamento parlerà solo della manovra e delle elezioni, e quindi non ci saranno, come dire, altre occasioni utili per sistemare questa o quella partita. Su questo vorrei chiudere, adesso è ancora presto per parlarne, però circolano già ipotesi che vi potrebbe essere un ricorso alle urne a ottobre-novembre, collegato anche a come andranno le elezioni in Francia, ma soprattutto eventualmente anche in Germania, e poi anche le primarie del PD, perché insomma lo sanno anche i sassi ormai che se si va a elezioni la decisione finale, proprio per il ruolo che ha nel governo, spetta al PD e a quello che sarà il segretario del PD dopo le primarie. Lo dico, ma non è notizia, Renzi è in netto vantaggio da tutti i circoli, quello che ho visto dai circoli. Ma dicevo, c'è l'ipotesi che a questo punto, se si va a elezione a ottobre, novembre, la manovra venga anticipata a agosto, settembre? Se si decide di andare a elezioni, come appunto alcuni segnali possono lasciar presagire, più che un'ipotesi è una certezza, nel senso che tu comunque la manovra di bilancio la devi fare. Tra l'altro dovresti fare una super correzione di circa di 0,9 di PIL, cioè siamo intorno ai 14-15 miliardi, per rispettare gli obiettivi che hai contrattato con l'Europa. Tutti quelli, i tecnici che sono andati alle audizioni, hanno detto che è difficile farlo senza aumentare l'IVA, ed è vero, lo dice la matematica. L'alternativa è chiedere all'Europa un po' di deficit in più anche per l'anno prossimo. Sì, dopodiché sorrido perché già le manovre finanziarie sono sempre l'assalto, la diligenza, così. Non oso pensare l'incisività di una manovra prima delle elezioni, perché inutile girarci attorno, difficilmente andrei a fare riforme, tagli strutturali o manovre importanti se un mese dopo vai a votare. E infatti la via del deficit è quella che si spalanca di fronte a tutta la politica prima delle elezioni. Staremo a vedere. Intanto grazie a Gianni Trovati, manovra appunto che arriverà domani, non più oggi. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, il prossimo appuntamento con Focus Economia è domani, torna anche la classifica, ovviamente la poco invidiabile classifica, da domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.